ti ho vista guardare le stelle, ti ho vista scegliere quelle più belle, ti ho vista un mattino in un campo di grano, che sola sognavi e guardavi lontano. Ti ho vista in un letto abbracciata al dolore, ti ho vista sfiorire come le rose, e mentre piangevi di queste tue cose, io ti raccontavo storie d'amore. E bianca la luna di un manto più bianco, di fare all'amore non ero mai stanco, e baci e carezze e zavere in fiore, cercavi la luce in un mondo che muore. E in queste colline di nera follia volevo fuggire e andarmene via, ma sono rimasto a tenerti per mano, stringerti forte, guardare lontano. Quel dolce tuo viso velato dal male, quegli occhi smarriti, le labbra nel sale, io sono tempesta e tu piccolo fiore che cerca la vita in un giorno che muore, che cerca la vita in un mondo che muore.